Il professor Mario Monti è un neoliberista, in tutta la sua carriera accademica ha sempre impersonato il neoliberismo imperante. Recentemente si è più volte pronunciato con termini d'ammirazione per le riforme di struttura o riforme strutturali, evocando anche lui Riccardo Lombardi. Ma il punto focale è questo, che per Riccardo Lombardi le riforme di struttura servivano a ribaltare il sistema capitalistico, quindi riportare il potere alle masse popolari. Per Monti le riforme strutturali servono semplicemente a razionalizzare l'attuale sistema in un'ottica che tiene sempre più conto di tutto ciò che gravita attorno alla finanza, a discapito di quelli che sono i servizi che lo Stato deve rendere ai cittadini in termini di beni comuni indispensabili alla vita dei cittadini. Penso all'università, penso alla scuola, penso alla sanità, penso alla cultura in senso generale. Ecco, il capitalismo, lo hai detto tu, ha mostrato la corda, eppure il sistema non vuole cambiare. C'è chi parla di dittatura dei mercati, e molti paesi, tra cui l'Italia, cedono pezzi di sovranità, penso al pareggio di bilancio in Costituzione, in vista di una non meglio precisata, ancora molto fumosa, Unione Politica Europea. Che spazi di manovra allora ci sono per un cambiamento in quel senso? Ecco, una speranza oggi è nata, la vittoria in Francia di François Hollande del 6 maggio, a cui si è aggiunta un'altra vittoria bellissima del Partito Socialista Francese, può essere un punto di partenza per in qualche modo coagulare il più possibile tutte le forze socialiste, ripeto, sottolineo socialiste, a me non basta più che qualcuno si dica progressista e riformista, no, la scelta deve essere netta e chiara tra una impostazione politica che si richiama ai valori del socialismo, trovando una nuova economia, un nuovo approccio all'economia più diretta alla soddisfazione e realizzazione dei bisogni ma anche delle esigenze umane.